E alla fine è stato beccato, è stato condannato, sì, 2.000 euro di multa, 2 settimane di carcere e la licenza ritirata. Ma come la licenza ritirata? Lei non ce l'ha mai avuta. E infatti sono stato fortunato. Comunque, devo dire, sono stato un pilota, ero magnifico, ero un pilota eccezionale. Studiavo di nascosto, facevo tutto da solo, ma ero un talento. Solo un errore una volta ho fatto. Ah sì? Sì, sì, ho fatto un errore. E cioè? Io svedese, sa, una volta sul Milano-Roma, gente serissima, a bordo politici, uomini affari, faccio il saluto, sono il comandante, anzi l'aiuto comandante, arriveremo con 10 minuti d'anticipo perché abbiamo il vento in culo. Come il vento in culo? In coda, si dice. Ah, sono uscito in cabina e mi sono scusato, ma mi hanno applaudito tutti. Straordinario il pilota falso Thomas Salme, il GR 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:21 minuti. Per la nostra intervista di oggi voglio salutare il ministro degli esteri Franco Frattini. Ministro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, parte la doppia missione umanitaria in Tunisia e in Libia. Da quando sarà operativa? Possiamo dare una certa data? Ma io credo che già stasera possa partire la nave da Catania, che da ieri sta caricando derrate alimentari, anche impianti per l'elettrificazione, per la potabilizzazione, arriverà al porto di Bengasi, ci vogliono una trentina di ore per arrivare via mare. A Tunisi, in Tunisia, il team della Farnesina e della Protezione Civile è già lì, sono già nel campo e stanno verificando il luogo fisico dove montare le tende, poi evidentemente sì, tutto arriverà prima perché lì si va con gli aerei e non con la nave. Certo. Il nostro obiettivo è di aiutare l'evacuazione di alcune decine di migliaia di cittadini egiziani che vogliono tornare in Egitto e che ora stanno ammassati in quella area al confine tra Tunisia e Libia in condizioni francamente inumane, quindi bisogna intervenire con grande rapidità. Anche se il ministro Maroni ha detto siamo pronti anche al piano B, cioè 50.000 migranti possibili in arrivo. Senta, non si rischia di esagerare con le cifre? Ma noi abbiamo visto in quell'area circa 90.000 persone e sappiamo che in tutta la Libia ci sono almeno 1,5 milioni di non libici che perdendo il lavoro non sanno evidentemente dove andare. Questi 90.000 si trovano al confine con la Tunisia, in territorio della Tunisia con la Libia, in territorio tunisino, ma non possiamo immaginare altri flussi da dove potrebbero provenire, quindi al piano B bisogna assolutamente essere pronti e le dimensioni di Maroni sono assolutamente equilibrate. Il presidente Obama dell'America dice Gheddafi se ne vada, però ministro, anche oggi i giornali iniziano a dire ma se Gheddafi rimanesse, rimane un possibile interlocutore? Noi non lo crediamo più un interlocutore possibile, lo ha detto l'intera comunità internazionale, si tratta di una persona, lui stesso e la sua famiglia, sottoposti a sanzioni gravi dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, addirittura il procuratore del Tribunale Penale Internazionale sta indagando per crimini contro l'umanità, com'è possibile? Ma c'è anche un'eventuale opzione militare, secondo lei potrebbe essere presa in considerazione? Io non credo che l'opzione militare sia da considerare con leggerezza, evidentemente ci vogliono mandati precisi del Consiglio di sicurezza, della NATO, ma soprattutto abbiamo sentito le parole molto chiare della Lega Araba. La Lega Araba ha detto con assoluta chiarezza gli occidentali non entrino con militari, con eserciti, con forze armate, insomma solo chi non conosca per niente il mondo arabo può parlare sì, con leggerezza di un'azione nel cuore del mondo arabo da parte di militari occidentali. Ministro, le chiedo, il rapporto Italia-Libia è in vigore in questo momento? No, evidentemente noi stiamo aiutando il popolo libico, ma il trattato è giuridicamente sospeso perché semplicemente viene meno un interlocutore, un trattato si firma tra due governi ma resta in vigore tra due stati, io ho detto con grande chiarezza non deve essere annullato, deve considerarsi sospeso perché noi speriamo presto in una nuova Libia e quel trattato deve riprendere vigore. Ancora due domande. La prima è questa: vedendo quello che è successo nei mesi scorsi quando Gheddafi è venuto in Italia, secondo lei davvero non c'è alcun imbarazzo per l'accoglienza, data anche il famoso baciamano di Berlusconi? Sì, ma guardi, io la farei finita con queste storie che sono piccole cose di politica interna. Ma per carità, abbiamo visto Gheddafi 5 giorni a Parigi all'Eliseo, accolto con tutti gli onori. Lo abbiamo visto presiedere la Lega Araba con tutti i leader arabi che andavano lì ad abbracciarlo, ma per piacere. Noi evidentemente abbiamo preso atto di una situazione che è profondamente cambiata. Abbiamo il capo di un paese che ha cominciato a sparare contro il suo popolo, e in quel momento la comunità internazionale ha detto basta. L'ultima domanda è sul Pakistan. Oggi si svolgono i funerali del ministro Shahbaz Bhatti, unico ministro cristiano ucciso nei giorni scorsi. Lei se l'è presa molto con l'Europa, e so che lei anche aveva un rapporto personale con il ministro. Io considero questo ministro veramente un martire della libertà, insomma. Lo dico francamente, io sono stato l'unico ministro degli esteri che non soltanto era andato a trovarlo a Islamabad, l'aveva invitato a Roma, ma che aveva detto con grande chiarezza che parlare di libertà religiosa non è semplicemente difendere il diritto di noi cristiani, ma difendere una libertà di tutte le persone, di tutti gli esseri umani. Il ministro Bhatti ha dato la vita per questo, e io credo che tutto il mondo gli debba rendere omaggio. Noi metteremo una grande gigantografia fissa nel palazzo del Ministero degli Esteri italiano per ricordare questo ministro coraggioso. Ma perché se l'è presa con l'Europa lei? Me la sono presa con l'Europa perché dopo 2 mesi siamo riusciti a stento a fare inserire il principio che le minoranze cristiane sono state perseguitate. C'era qualcuno che parlava di generici diritti di libertà religiosa, ma insomma, questi sono cristiani o non sono cristiani? Sono loro o non sono loro le vittime delle stragi? Era o non era cristiano questo ministro Bhatti? Allora, diciamo le cose con il loro nome e con il loro cognome. Adesso tutti fanno lacrime di coccodrillo ora che lui è morto, ma insomma, questa solidarietà non gliela doveva dare solo l'Italia, gliela doveva dare tutto il mondo. La ringrazio, ministro, buona giornata. Buona giornata. Alle 8:27 minuti il ministro Franco Frattini, ministro degli esteri, che è stato con noi per l'intervista. Noi ci fermiamo per il traffico, e sì, il traffico, mi sono portato avanti, per la pubblicità e il meteo. E poi il tema del nostro sondaggio. Il tema del nostro sondaggio è il no all'election day che si profila. No, non è ancora deciso, ma il ministro Maroni ha detto si voterà alle amministrative primo turno, secondo turno, e poi ai referendum più avanti il 12 giugno. L'opposizione insorge, parla di spreco di denaro, di 300-350 milioni buttati via per il mancato accorpamento di queste elezioni. Sta di fatto che insomma c'è questa polemica. Noi vi chiediamo, amministrative e referendum in 2 date diverse, siete d'accordo? Questo è il tema del nostro sondaggio. Votate su radio24.it, oppure se ci volete chiamare 800 24 0024, gli sms al 349 238 6666, siamo qui tra poco. 24 mattino. Siamo qui, 8:34 minuti nel nostro sondaggio di oggi. Parliamo di politica, parliamo dell'annuncio, non è ancora una decisione definitiva, ma dell'annuncio di voler fare da parte del ministro Maroni le amministrative il 15-16 maggio, secondo turno il ballottaggio il 29-30 maggio, e i referendum un po' più avanti, il 12 giugno, la legge lo consente entro il 15 giugno, ma insomma l'opposizione insorge. È un modo per far naufragare il referendum, è un modo per sprecare soldi. I referendum andavano accorpati al secondo turno delle amministrative nell'election day. Questo è il tema del nostro sondaggio. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Le amministrative e referendum in 2 date diverse, questo si profila. Siete d'accordo? Questo vi chiediamo. Su radio24.it prevalgono per il momento i no con il 78%. Ne vogliamo parlare con Luciano Dussin, che è vice capogruppo alla Camera della Lega. Buongiorno onorevole Dussin. Buongiorno a tutti voi. Così come saluto l'onorevole Leoluca Orlando, il portavoce dell'Italia dei Valori. Buongiorno Orlando. Voi avete tuonato contro questo spreco di denaro, 300-350 mila euro, però onorevole Orlando, veniamo al punto. Siccome nel referendum uno degli aspetti importanti è anche il quorum, e quindi si fanno anche delle battaglie legittime dicendo non andate a votare, eccetera, visto che è tutto a norma di legge, non pensa che sia legittima anche una scelta a dire facciamo così in modo che i referendum, meno persone vadano a votare, perché questi referendum non ci piacciono? Ma noi non abbiamo tuonato, io voglio ricordare che noi da alcune settimane andiamo dicendo, raccogliendo firme, anche con un apposito sito, io voto il 29 maggio, raccogliendo una serie di consensi, centinaia di migliaia di adesioni sul sito io voto il 29 maggio, abbiamo sostanzialmente chiesto al governo, al ministro Maroni, che entro il 12 marzo, una data stabilita per fissare la data del referendum, fissi la data dei quattro referendum in coincidenza col ballottaggio per le amministrative. Una proposta che ci sembra di buon senso e ragionevole, una proposta che adesso sembrerebbe che il governo intenda non seguire. E allora qui sì che torniamo, diciamo, ma per quale motivo non si fa una cosa ragionevole e di buon senso? Ma perché non si la domanda che lei mi ha fatto è una domanda che può essere fatta, cioè, beh, c'è qualcuno che vuole consentire una maggiore partecipazione al referendum, evitiamo che ci sia una maggiore partecipazione al referendum. Ma questo è un fatto positivo in democrazia. In democrazia bisogna fare di tutto perché possa crescere. No, però lei sa che i referendum, cioè non è come dire non andate a votare per l'elezione del Parlamento. Aggiungo di più, il far coincidere la data del referendum con la data dei ballottaggi non serve soltanto a far crescere il numero di coloro che va a votare per il referendum, ma fa crescere anche il numero di coloro che vanno a votare per i ballottaggi. Allora, è chiaro che molti che magari non andrebbero a votare per il ballottaggio, per l'elezione di un sindaco piuttosto che di un presidente di provincia, e invece andrebbero, fanno perché hanno anche interesse rispetto al nucleare, allora, rispetto all'acqua pubblica o rispetto al legittimo impedimento. Che sono i tre referendum. Onorevole Dussin, l'accusa invece alla, in questo caso... I tre temi. Sì, certo. L'onorevole Dussin, volevo chiedere questo, un'accusa che viene fatta in questo caso deve decidere, o comunque la proposta è del Viminale, è in capo dunque al Ministero Maroni della Lega, e questa è stata la Lega, sempre Roma sprecona, e adesso questi 300-350 milioni di euro, come la mettiamo? Che è il solito ritornello. Veda, l'accorpamento non si è mai fatto perché i cittadini, soprattutto per quanto riguarda la loro partecipazione ad un referendum, devono essere liberi nella scelta, e così sarebbero costretti ad un rifiuto pubblico della scheda. Mi vengono in mente i miei genitori che hanno 80 anni e quindi se si dovessero recare a votare per il sindaco, per le amministrative, sì, non avrebbero mai il coraggio di rifiutare pubblicamente le schede per il referendum. E questa sarebbe una costrizione, ed è per questo che da sempre si evita l'accorpamento amministrative e referendum, perché vanno in due binari completamente diversi. Uno degli obiettivi dei referendari deve essere quello di proporre delle modifiche che interessino almeno il 50% più uno dei cittadini italiani interessati dalle loro proposte. Onorevole Dussin, se però questi non vanno a votare, è il fallimento ma della questo proposta. E infatti io, secondo me, se fosse stata, per esempio, Maroni ha tirato in ballo la tradizione, come un po' ci dice lei, però anche oggi il Sole 24 Ore dice, ma insomma la tradizione non è una legge, la tradizione è la tradizione, uno la può cambiare anche la tradizione. Cioè se fosse stata una dichiarazione chiara a dire, sentite, il governo è contro questi referendum, cioè non trova che questi referendum non debbano passare, no, perché è legittimamente convinto che questi referendum siano sbagliati. Quindi adottando tutti a norma di legge, perché vanno fatti entro il 15 giugno, noi li mettiamo l'ultimo giorno disponibile, così la gente è un po' al mare, la gente non viene, non si raggiunge il quorum, che è una battaglia che si fa spesso dicendo ai referendum. Questa può essere una chiave di lettura, ma non è così. Cioè, finché i referendum sono basati su questo dispositivo, è giusto garantire ai cittadini la possibilità di fare una scelta, di partecipare o quindi, no, di voler andare. Sempre la solita storia dei 350-400 milioni di euro, un po' di spreco c'è, cioè, quando si vuole, perché in effetti è meno della metà, e tra l'altro 200 milioni vengono calcolati per spese indirette, vuol dire che calcolano che se resta chiuso un giorno di più la scuola ci sono 3 milioni di famiglie che dovrebbero ricorrere al babysitter perché se va a votare la mamma e il bambino rimane a casa. Vabbè, però anche se fosse anche se fosse un costo c'è agli scrutatori, le urne. Riduca di 4 volte almeno. Lo riduciamo di 4 volte. Vabbè, questo calcolo di 300-350 mila euro, la voce.info in un'esperienza precedente calcolò fino a 400 milioni di euro. Non so, onorevole Orlando, da come è venuta questa cifra? Sembra un po' buttata lì per fare una battaglia politica, oppure c'è un qualcosa di concreto? Cioè, come... Ma intanto vorrei dire che non è vero, che non si è mai verificata questa coincidenza, perché nel 2009 c'è stata una coincidenza a fare referendum ed elezioni, il 21 e 22 giugno del 2009, e non si raggiunse il quorum, il che sta a dimostrare che la nostra richiesta non è strumentale e mira soltanto a creare le condizioni perché ci sia il massimo di partecipazione possibile nella competizione elettorale. Quanto al costo, ma c'è un costo certamente sul quale possiamo discutere all'infinito. Noi abbiamo considerato 350 milioni la differenza di costo tra l'una ipotesi e l'altra ipotesi, ma se non sono 300 saranno 250, saranno 230. Il tema è di fondo. Si ha la sensazione, qui la Lega francamente delude, si ha la sensazione che questa maggioranza chiusa nel fortino del Parlamento con l'acquisizione, uso l'espressione acquisizione ma devo usare l'espressione acquisto di parlamentari, ricorrendo continuamente al voto di fiducia che serve a controllare fisicamente la fedeltà degli acquistati, abbia paura del consenso popolare. Ma in quale democrazia si come titolo oggi l'unità, scoraggiare la partecipazione al voto. L'unità titola così: hanno paura degli italiani. Il Fatto Quotidiano titola in prima pagina: per salvare Berlusconi bruciano 350 milioni. Ma vabbè, insomma, questi sono anche giornali che fanno le pulci al governo. Voglio sentire Piero da Milano, 800 24 00 24, per intervenire. Piero, buongiorno, che pensa? Buongiorno a lei e buongiorno agli ospiti. Io volevo fare questa segnalazione. Già negli anni 2000 partecipai a un referendum insieme a delle elezioni amministrative e in quella sede mi rifiutai di prendere la scheda del referendum perché non ero interessato a dare la mia opinione su quella cosa, ma questo è un fatto a sé stante. Sono comunque d'accordo sulla separazione dei due sistemi, quindi per quello che riguarda le amministrative e quello che riguarda il referendum, perché il sistema unificato potrebbe inquinare l'una o l'altra votazione. Quindi lei dice, come l'onorevole Dussin, sono cose da tenere separate. Assolutamente sì. Grazie. Faccio un altro piccolo esempio. Nelle primarie del PD, che sono state a Torino, hanno utilizzato delle schede del tutto simili nella loro figura grafica a quelle che si usano nelle votazioni per le amministrative e per le politiche. Per cui ogni strumento che può essere anche di marketing politico viene utilizzato in modo efficace per ottenere o l'uno o l'altro. Va bene, grazie Piero. Vladimiro dalla provincia di Arezzo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono favorevole all'accorpamento per una semplice ragione, perché qui non si tratta di un elettore che è ingannato più o meno. Noi siamo tutti persone adulte che andiamo a votare. Se voglio votare per il referendum, voto per il referendum. L'onorevole Dussin dice i suoi genitori. Io voglio essere libero, ma voglio anche che le istituzioni favoriscano un'istituzione. No, però Vladimiro, l'onorevole Dussin dice, non so, genitori anziani, persone di 80 anni, dice, non riceverebbero, non rifiuterebbero allora mai una anche scheda. Il voto, diciamo, è truccato, perché se si va su questo punto di vista, non bisogna fidarsi degli elettori, bisogna che si fidino di noi queste persone. Noi non ci fidiamo più di loro, ma loro bisogna cominciare a fidarsi di noi. La fiducia, la fiducia univoca. Certo, univoca la fiducia. Io non mi fido di loro. Appunto, univoca, non bionivoca. Grazie Vladimiro. Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, il 78% di voi si dice contraria a questa decisione, decisione non ancora presa, ma insomma si profila, di tenere separati, di non fare l'election day. Tra l'altro oggi il Riformista racconta questa vicenda, insomma, di Gianfranco Fini, che potrebbe ingaggiare un nuovo duello con lo stesso Berlusconi proprio sul fronte referendario. Ma attenzione, perché su questo terreno volesse, non so, uscire allo scoperto e dire Fini è giusto l'election day, eccetera, sono sono già pronti, raccontano alla maggioranza, a rinfacciare un precedente. 1997, il referendum radicali, vennero tenuti separati, appunto la tradizione famosa a cui si è riferito il ministro Maroni, e allora al Viminale c'era Giorgio Napolitano. Quindi è sempre stato così, ecco, questo è il... E quindi attenzione a chi si vuole buttare per mari perigliosi nello sposare magari questa causa. Simona da Modena, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Io chiamo per porre una questione semplice, pratica, proprio economica. Allora, io vivo a Modena, ma sono residente in Puglia, in provincia di Bari. Secondo loro, secondo i politici, io cosa dovrei fare? Dovrei scendere per due volte per votare? Tre volte. Se vota anche il referendum. Infatti, per tre volte per votare dovrei chiedere tre giorni di permesso, perché io sono un dipendente, lavoro in una scuola pubblica, sono un dipendente statale, hanno tolto la possibilità dei permessi retribuiti per le votazioni, e dovrei pagare di tasca mia per scendere, dovrei pagare... Permessi, insomma, magari se adesso io non voglio fare le pulce, ma se la viaggia il sabato, arriva la domenica, magari ce la fa. Però capisco, da Modena alla Puglia non è facilissimo. Nel senso che, magari... E comunque costa. Infatti. No, ma lei pone un problema pratico, infatti oggi il Sole 24 Ore pone questa problematica che vorrei girare l'onorevole Dussin nella pagina dei commenti. Ma perché non si fa una bella legge semplice che, laddove ci sono votazioni di qualunque tipo, vengono accorpate? Cioè, sempre, comunque, referendum, europee, amministrative, quello che sia, politiche. E così ci togliamo i dubbi, anche le polemiche, non facciamo queste trasmissioni, onorevole. Ma è un pronunciamento semplice, di buon senso, però certe volte irrealizzabile, perché ci ricordiamo molto spesso anche per leggi elettorali che consentono aperture massime a partiti poco radicati di presentarsi, certe volte solo per scegliere che partito votare bisogna avere delle lenzuolate di liste che fanno paura, se là poi ci aggiungiamo altri 5 o 6 requisiti referendari, se là bisogna fare un accampamento dentro il seggio elettorale, certe volte può avere un senso, no. Molto spesso si scontra con esigenze di questo tipo. Onorevole, addirittura l'accampamento, perché ci rischiamo, però se mi consente, cioè, se lo strumento referendario ormai ha logorato un po' anche l'interesse dei cittadini, è stato utilizzato molto spesso come arma per l'opposizione, se dal 1995 abbiamo fatto 7 referendum, mai è stato raggiunto il quorum, vuol dire che bisogna ripensarlo. E cioè? Bisogna anche assumersi la responsabilità di presentare delle cose una volta ogni tanto, ma che possano coinvolgere anche emotivamente Perché c'è questa proposta di dire non passa il referendum, paghino i costi referendari. Vedi, lo dico io per lei, lei non ha il coraggio, lei vorrebbe questo. Lo vorrei. Ma magari con una penalizzazione, che so, sui rimborsi elettorali, perché chiedere qualche centinaio di milioni di euro sarebbe cose irrealizzabili. Ha capito, onorevole Orlando? No, rimbalza la palla al mittente, cioè altro che spreco. Adesso vi chiedono anche i soldi, onorevole Orlando. Sì, ma è chiaro, questa paura della partecipazione, questo fastidio per la democrazia, che è proprio di un sistema che si è fatto regime e rimane arroccato nel fortino. Ma io voglio ricordare che i fatti sono argomenti testardi. Decreto legge 27 gennaio 2009 numero 3. Col decreto legge 27 gennaio 2009 proposto dall'allora ministro dell'interno Roberto Maroni, che è l'attuale ministro dell'interno, si sono accorpate le elezioni amministrative nel ballottaggio con le elezioni referendarie, cioè c'è stato il 21 e 22 giugno del 2009, non del 2009, 2 anni fa c'è stato un accorpamento con un decreto legge proposto e disposto dal ministro Maroni e dal governo Berlusconi. Allora perché continuava a dire bugie? Non si è mai verificato. Ma infatti, onorevole, dovevano dire questi referendum non siamo d'accordo, c'è neanche uno per il legittimo impedimento che crea... Il tema vero qual è? Che questo problema non riguarda in generale soltanto il referendum, quindi la paura paura per la partecipazione, riguarda l'esigenza di difendere con legittimi impedimenti il Presidente del Consiglio. Siamo arrivati adesso anche ad un ministro ad personam, cioè un ministro che fa delle scelte. Beh, ma adesso però sono tutte scelte legittime, cioè a norma di legge, no? Poi sì, si ma sta non discutendo. Mi viene a dire che sarebbe la prima volta, perché questo ministro ha mentito, perché 2 anni fa lui stesso con decreto legge ha disposto l'accorpamento. Giorgio da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Io sono favorevole ovviamente all'accorpamento, principalmente per una questione legata ai soldi, perché comunque risparmiare 350 milioni vuol dire tanto, soprattutto per un dipendente statale che si è visto bloccare il proprio contratto per i prossimi 3 anni per recuperare magari non so quanti milioni, però non mi sembra una grande somma, e adesso invece assisto ancora una volta impotente, nonostante faccia parte del popolo, quello che è sovrano, quello che dovrebbe decidere o quello che dovrebbe quantomeno avere la possibilità di esprimersi, mi vedo anche defraudato. Beh, però scusi Giorgio, adesso non, cioè, io capisco tutte le cose, però non è che lei è defraudato del referendum. Se si terranno il 12 giugno e se lei ci tiene a questi referendum può andare a votare, deve solo andare a votare una volta in più, cioè non è che è un'azione, si può discutere politicamente, criticare, cioè lo stiamo facendo, stiamo discutendo, però i referendum ci sono, cioè non è che verranno cancellati e il popolo non si potrà esprimere su questo, o no Giorgio? No, comunque si sprecheranno 350 milioni in più. Vabbè, questo tranquillamente salvare, no? Questo sì, no, ma questo è infatti l'accusa maggiore. Poi l'onorevole Dussin discute un po' sulle cifre, contesta le cifre, non saranno 350, saranno meno 200, però insomma il dato di fatto certamente è che si crea una questione politica e anche economica non indifferente. Onorevole Dussin, ritorno alla prima domanda, tanto abbiamo un minuto, ma insomma questa accusa Roma ladrona e poi la Lega fa così non vi brucia neanche un pochettino? Vi colpisce un po' nell'orgoglio voi? Ah no, perché no. Solito spot, guardi, quella domenica là vanno a votare 1.000 comuni su 8.000, quindi le spese resterebbero tutte là. Il problema è che qua si sento parlare di bugie, no? Lo spot, l'acqua pubblica. L'acqua è già pubblica. No, vabbè, quelli per sono i temi del referendum. Come lo è pubblica negli altri paesi. Abbiamo seguito una direttiva europea che ci dice di mettere in gestione il servizio dell'acqua coinvolgendo i privati. Però questi sono i temi dei referendum. Su questo ci entreremo. Su questi poi ci entreremo, ne parleremo. Sì, voglio dire. Ormai hanno stancato con questa storia qua. Se gli italiani da 16 anni non partecipano ai referendum, vuol dire che una volta i radicali, adesso Di Pietro, li utilizzano ogni volta che c'è una legge che non gli va bene, c'è l'arma del ricatto del referendum. Il ricatto. La esercitano legittimamente. Se nessuno va a votarli, alla fine chi perde sono loro, no, perché propongono qualcosa che non interessa va agli bene italiani. Questo sì, però non è un ricatto, è una cosa prevista ricatto, da... no, è la Costituzione, vi ringrazio l'onorevole Luciano Dussin della Lega e l'onorevole Leoluca Orlando dell'Italia dei Valori per essere stati con noi. Ci fermiamo con Alessandro Marco, ma perché Alessandro Marco, ma che nomi dico? Alessandro Marcotulli lavora con Oscar Giannino, ma ha lavorato anche con me, non ce l'avevo in mente, ieri l'ho chiamato a sera e allora ce l'avevo in mente. Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè, l'alpino, in regia. La linea va a Oscar Giannino col suo Alessandro Marcotulli in redazione, e gli ho detti tutti, ci troviamo lunedì 7:20.